B. Ascolta e completa il testo. Ho comprato un regalo alla signora Maria. Gliel'ho comprato perché vado spesso a mangiare i panini al suo chiosco e ultimamente abbiamo parlato molto. Ho conosciuto meglio questa signora. Non solo prepara degli hot dog fantastici, me li ha sempre preparati proprio come piacciono a me, ma è una donna davvero simpatica ed intelligente. La scorsa settimana mia sorella ed io avevamo voglia di un paio di hot dog. Era molto tardi, la signora Maria stava per chiudere. Per fortuna ce li ha preparati, due panini caldi, proprio come piacevano a noi. Poi ha tagliato due fette di torta al cioccolato. Mia sorella ed io non capivamo. Maria ce le ha incartate dicendo che era un suo regalino. Per questo le ho comprato una maglietta. Gliel'ho comprata rossa, perché spesso la signora Maria si macchia di ketchup. Sono sicura che a Natale, quando gliela darò, sarà felice e mangerà certamente un panino con me.